fermare le barriere o la grandine, fulmine. Questo uragano sta urlando per te quando arriva l'amore, spaccarti la vita in una buona fortuna e sia splendido.